sole, l'altra vede appena spesso la sua vita, levanta la schiena, sa come va il mondo, spesso le fa rabbia, quando crede di aver vinto vaga ancora in quella nebbia.